Il punto di Stefano Folli. Stiamo assistendo a un pericoloso cortocircuito nel centrodestra, un'area che, pur escludendo la Lega, ha raccolto più di un quarto degli elettori. L'assedio giudiziario a Berlusconi provoca comportamenti sempre più affannosi e contraddittori nel leader e in tutto il gruppo dirigente. La manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia di Milano lo conferma. E ancora di più il rischio che il Parlamento ne sia destabilizzato. Fin dalla seduta di apertura, se il PDL assumerà, ma speriamo di no, iniziative tipo la non presenza in aula o altre contestazioni. In questo quadro, a cosa può portare oggi l'incontro con il Capo dello Stato? Napolitano può invitare al buon senso, a moderare i toni, ma è ovviamente impossibile che possa intervenire sulla magistratura. E a nessuno può convenire, tantomeno a Berlusconi, trascinare nelle polemiche un istituto di garanzia come è e deve restare il Quirinale.